Cara mamma, è passato ormai un anno da quando il Signore ti ha chiamata con lui, e questo è stato il periodo più triste e più doloroso dei miei 12 anni di vita. Mi sei mancata. Mi manchi ora come dal primo istante in cui ci hai lasciato soli, con il nostro dolore. Per fortuna Luca, che è ancora piccolo, non ha provato quello che abbiamo provato io e papà, ma anche lui ha capito qualcosa del nostro dolore, del clima che si respira in casa. Mi ricordo di quei momenti in cui eri ancora tra noi e insieme eravamo una bellissima famiglia felice. Ricordo quando da piccolo mi accompagnavi all'asilo e mi lasciavi lì, tra gli altri bambini che giocavano felici, mentre io piangevo perché non volevo che te ne andavi. Ricordo quando insieme andavamo al parco e tu mi spingevi sull'altalena, in alto, sempre più in alto, facendomi comparire quel sorriso sulle labbra che a te piaceva tanto. Mai e poi mai potrò scordare nella mia, nella tua espressione, quando mi hai comunicato la notizia che ha reso la nostra famiglia più felice e ancora più forte. Era sabato pomeriggio. Io ero appena tornato dall'oratorio dopo una partita di calcio agghiacciante. Avevamo ospiti a casa quel giorno e tu mi chiamasti in disparte e mi dicesti, con un sorriso alla Julia Roberts, «Fabio, la mamma aspetta un bambino». Allora rimasi a bocca aperta e ci abbracciammo. Fu un abbraccio lungo un secolo. 9 mesi dopo è nato Luca, il bambino più bello che abbia mai visto. Sfortunatamente lui non ha potuto conoscerti bene, conoscere il tuo amore verso gli altri, conoscere la tua gioia di vivere. Un anno dopo la sua nascita, quel dannatissimo tumore non ti ha lasciato scampo. Ricordo ancora le tue ultime parole prima di abbandonarci per sempre. Sappiate che io vi ho sempre amato e che anche da lassù vi amerò e vi osserverò sempre. Vi proteggerò e vi sarò vicina in qualsiasi situazione vi troverete. Sarete sempre i miei piccoli. Quelli a seguire sono stati giorni dolorosissimi per me, per papà e per tutte le altre persone che hanno avuto modo di conoscerti. Mi si spezzava il cuore quando vedevo il piccolo Luca che continuava a cercarti in ogni stanza e che quando non ti vedeva ci guardava con l'aria triste e delusa e ci diceva «Non c'è». Io lo abbracciavo forte e senza farmi vedere piangevo. Io stavo malissimo. In quei giorni non mangiavo, non parlavo con nessuno. Non uscivo dalla mia stanza. Poi, piano piano, con il passare del tempo, ho cominciato a farmene una ragione. E ho pensato, ormai la mia mamma non c'è più. Ed il mio atteggiamento non la farà tornare in vita. Così ho ripreso la mia vita, con un grande vuoto nel cuore, che resterà sempre dentro di me. Certe volte mi è anche passato per la testa di raggiungerti, ma poi, riflettendoci, ho capito che sarebbe stata solo un'altra grandissima sofferenza per papà e per il piccolo Luca, che ora più che mai aveva bisogno di me. Allora, come oggi mi chiedo, perché Dio ha scelto proprio te, spezzando l'enorme felicità che ci univa? A volte Dio è davvero incomprensibile. Per ora una risposta non l'ho trovata. So che questa lettera non potrai mai leggerla, ma mi piace immaginare di scriverti, magari pensandoti in un luogo lontano, forse in mare, che amavi tanto. Ciao mamma, sei stata la migliore. Il tuo cucciolotto Fabio.